Le favole di Esopo. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Per paroledistorie.net. La volpe e lo scimpanzé eletto sovrano. In un'assemblea di animali, uno scimpanzé aveva danzato e saltato meglio di un acrobata. L'assemblea votò all'unanimità l'elezione dello scimpanzé quale nuovo sovrano. Non tutti, però, avevano dato il loro voto favorevole. Tra questi vi fu la volpe. Essa divenne gelosa e invidiosa, finché pensò di escogitare un tranello contro il nuovo re scimpanzé. Andando in giro per i boschi, la furba volpe meditava, quando d'improvviso vide adagiato al suolo un grosso pezzo di carne. La volpe guardò meglio intorno e notò che quella carne stava ben nascosta in una trappola. Subito la volpe si recò dal re scimpanzé e disse: «Maestà, vi prego, venite subito con me. Ho trovato un tesoro degno della vostra corona, ecco, corona di sovrano, ecco». «Dimmi, o volpe, di che si tratta?» domandò il re scimpanzé. «Maestà, ho visto un bel pezzo di carne fresca nascosto tra i cespugli. Io non ho voluto prenderlo per me, perché so bene di non esserne degno. No, voglio invece donarlo a voi, che siete il mio re». Il re scimpanzé e la volpe si recarono sul posto, e appena il re, entrato nella gabbia, afferrò il pezzo di carne, d'improvviso, zoom, si sentì un rumore sordo. La trappola scattò e il re scimpanzé rimase dentro. «Ah, che sciocco! Che sciocco che siete, signor re scimpanzé!» disse con un ghigno beffardo la furba volpe. «Siete così tanto ingenuo che vi hanno fatto persino re! Statemi bene, maestà!» La favola mostra quel che accade a coloro che afferrano le cose in modo avventato, per poi rischiare una sconfitta umiliante. Avete ascoltato Le favole di Esopo. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net